Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. Sì, in me c'è qualcosa di antipatico, discostante, pensava Levin uscendo da casa Scerbachi e dirigendosi a piedi dal fratello. Non vado bene per la gente. Orgoglio, dicono. No, non ho neppure orgoglio. Se avessi orgoglio non mi sarei messo in questa situazione. E si immaginò Vronsky, felice, buono, intelligente e calmo, che probabilmente non si era mai trovato nell'orribile situazione in cui egli si trovava quella sera. Ah sì, lei deve scegliere lui. Così doveva essere. E io non ho da lagnarmi di nessuno e di nulla. La colpa è mia. Che diritto avevo di pensare che lei avrebbe voluto unire la sua vita alla mia? Chi sono io? E che cosa? Un uomo insignificante che non è necessario a niente e a nessuno. Si ricordò di suo fratello Nikolai e si fermò con gioia su questo ricordo. Non ha forse ragione lui che al mondo tutto è cattivo e sporco? Levin si avvicinò a un lampione, lesse l'indirizzo del fratello che aveva nel portafogli e chiamò una vettura di piazza. Durante tutto il lungo tragitto per andare dal fratello, rammentò in modo vivo gli avvenimenti che conosceva della vita di Nikolai. Rammentò che il fratello, all'università e nell'anno dopo l'università, nonostante le irrisioni dei compagni, era vissuto come un monaco, adempiendo rigorosamente i riti della religione, il servizio divino, i digiuni ed evitando ogni piacere, soprattutto le donne. E come poi a un tratto si fosse stancato, si fosse accostato alle persone più infime, abbandonandosi alla più dissoluta sfrenatezza. Ricordò poi la storia del ragazzo che aveva portato via dalla campagna per educarlo e in un accesso di rabbia aveva picchiato tanto da avere un processo con l'accusa di lesioni. Ricordò poi la storia del baro, con il quale aveva perso soldi, dato una cambiale e poi sporto querela dimostrando che quello l'aveva imbrogliato. Erano i soldi che aveva pagato Sergei Ivanich. Poi ricordò che una volta aveva passato la notte in guardina per atti di violenza. Ricordò il vergognoso processo che aveva intentato al fratello Sergei Ivanich perché costui non gli avrebbe pagato la sua parte della tenuta materna. E l'ultima impresa, quando era andato in servizio nel territorio occidentale e qui era finito sotto processo per aver percosso un superiore. Tutto questo era terribilmente abietto. Ma a Levin non appariva assolutamente così abietto come doveva apparire a chi non conosceva Nikolai Levin, non conosceva tutta la sua storia, non conosceva il suo cuore. Levin ricordò come, al tempo in cui Nikolai era nel suo periodo di religiosità, di digiuni, di monaci, di servizi divini, in cui cercava nella religione un aiuto, un freno alla sua natura passionale, nessuno l'aveva non solo aiutato, ma tutti ed egli pure avevano riso di lui. Lo punzecchiavano, lo chiamavano Noè, monaco, e quando s'era stancato nessuno l'aveva aiutato, ma tutti gli avevano voltato le spalle con orrore e repulsione. Levin sentiva che il fratello Nikolai, nella sua anima, nel fondo stesso della sua anima, nonostante tutta la mostruosità della sua vita, non era più ingiusto delle persone che lo disprezzavano. Non era colpa sua l'esser nato con quel carattere sfrenato e la mente premuta da qualcosa. Da parte sua aveva sempre voluto essere buono. Gli spiattellerò tutto, lo obbligherò a spiattellarmi tutto e gli mostrerò che gli voglio bene e perciò lo capisco, decise fra sé Levin, giungendo dopo le 10 all'albergo indicato sull'indirizzo. Nikolai era ancora più magro di 3 anni prima, quando Konstantin Levin lo aveva visto per l'ultima volta. Indossava una finanziera corta. Sia le mani che la sua ossatura grossa sembravano ancora più enormi. I capelli erano diventati più radi, mentre sulle labbra penzolavano gli stessi baffi dritti, e sempre gli stessi suoi occhi guardavano in maniera strana e ingenua l'intruso. «Ah, Kostya!» proferì egli a un tratto riconoscendo il fratello, e i suoi occhi si illuminarono di gioia. Ma in quello stesso attimo egli si voltò a guardare il giovane e fece quel suo movimento convulso così noto a Konstantin, con la testa e con il collo come se la cravatta lo strangolasse. E tutt'altra espressione, selvaggia, sofferente e crudele, si fissò sul suo viso scarno. «Ho scritto a voi come a Sergei Ivanich che non vi conosco e non voglio conoscervi. Che vuoi? Di che cosa avete bisogno?» «Sono semplicemente venuto a trovarti». La timidezza del fratello evidentemente addolcì Nikolai. Egli contrasse le labbra. «Ah, sei venuto così? Bene, entra, siediti. Vuoi cenare? Asha, porta 3 porzioni. No, aspetta. Sai chi è questo?» domandò rivolgendosi al fratello. «È il signor Kriki, amico mio sin dai tempi di Kiev, un uomo assai notevole. Naturalmente la polizia lo perseguita perché non è un vigliacco». E secondo il suo vezzo si voltò a guardare tutti quelli che si trovavano nella stanza. «Siete dell'Università di Kiev?» disse Konstantin Levin a Kriki per rompere l'imbarazzato silenzio che era seguito. «Sì, ero dell'Università di Kiev», disse imbronciato e con ira Kriki. «E questa donna?» lo interruppe Nikolai Levin indicandola. «È la compagna della mia vita. Maria Nikolaevna. L'ho presa da una casa». E dicendo questo storse il collo. «Ma io l'amo e la rispetto, e chiunque voglia trattare con me», soggiunse alzando la voce e accigliandosi, «è pregato di amarla e di rispettarla. È lo stesso che se fosse mia moglie, assolutamente lo stesso. Sicché adesso sai con chi hai a che fare, e se credi di abbassarti, ecco la porta». E di nuovo i suoi occhi percorsero tutti interrogativamente. «Perché mi abbasserei? Non capisco». «Allora, Masha, ordina di portare la cena. 3 porzioni, vodka e vino. No, aspetta. No, niente, vai». «Dunque, vedi», proseguì Nikolai Levin corrugando la fronte con sforzo e contraendosi. Evidentemente gli riusciva difficile ponderare che cosa dire e fare. «Ecco, vedi...» e indicò in un angolo della stanza certi spezzoni di ferro legati con funi. «Vedi questa roba? È il principio di una nuova impresa. È una cooperativa artigiana di produzione». Konstantin quasi non ascoltava. Sbirciava la faccia malata con i segni della tisi del fratello e ne aveva sempre più pena e non riusciva ad ascoltare quel che il fratello gli raccontava della cooperativa. Vedeva che quella cooperativa era per il fratello solo un'ancora di salvezza di fronte al disprezzo verso se stesso. Nikolai Levin continuava intanto a parlare. «Tu sai che il capitale schiaccia il lavoratore. I lavoratori, i contadini, da noi, sopportano tutto il peso del lavoro e sono messi in una condizione tale che, per quanto si affatichino, non possono uscire dalla loro situazione bestiale. Tutti i margini del salario con cui potrebbero migliorare la loro situazione, procurarsi tempo libero e dunque istruzione, tutto l'eccedente della paga gli viene tolto dai capitalisti. E la società è fatta in modo che quanto più essi lavorano, tanto più si arricchiscono i commercianti, i proprietari di terre, e loro rimangono sempre bestie da soma. Quest'ordine si deve cambiare», concluse, e guardò interrogativamente il fratello. «Sì, naturalmente», disse Konstantin, sbirciando il rossore che traspariva alla base degli zigomi sporgenti del fratello. In quel momento ritornò Maria Nikolaevna. Nikolai Levin si voltò adirato verso di lei. Rapidamente lei gli si avvicinò e bisbigliò qualcosa. «Non sto bene e sono diventato irritabile», proferì Nikolai Levin calmandosi e respirando faticosamente. Tutti tacquero. Kriki si alzò lentamente e prese il berretto. «Non volete cenare? Va bene, addio. Domani venite con il fabbro». Appena Kriki fu uscito, Nikolai Levin sorrise e ammiccò. «Anche lui è cattivo», disse. Ma in quel momento Kriki lo chiamò dalla porta. «Che occorre ancora?» disse egli e uscì per raggiungerlo in corridoio. Rimasto solo con Maria Nikolaevna, Levin si rivolse a lei. «E voi siete da molto tempo con mio fratello?» le disse. «È già il secondo anno. La sua salute è peggiorata molto. Beve tanto», essa disse. «Che cosa beve?» «Beve vodka e gli fa male». «Ne beve molta?» bisbigliò Levin. «Sì», disse essa sbirciando timidamente la porta dove era apparso Nikolai Levin. «Di che cosa parlavate?» disse egli accigliandosi e portando gli occhi spaventati dall'uno all'altra. «Di che cosa?» «Di nulla», rispose Costantin confondendosi. «Se non volete dirlo, fate come vi pare. Solo che non c'è motivo che tu parli con lei. Lei è una ragazza di strada e tu sei un signore», proferì contraendo il collo. «A quel che vedo hai capito tutto e consideri con pietà i miei traviamenti», disse ancora alzando la voce. Konstantin Dmitrich si affrettò a cambiare discorso. «Lo sai che il tuo Vanyuska fa l'impiegato da me a Pokrovskoe?» disse. Nikolai torse il collo e si fece pensieroso. Ma raccontami, che cosa si fa a Pokrovskoe? Allora è sempre in piedi la casa? E le betulle? E la nostra stanza di studio? E Filippo, il giardiniere, possibile sia ancora vivo? Ah, come ricordo il capanno e il divano. Vada, sai, non cambiare nulla nella casa, ma sposati presto e rimetti tutto come era prima. Allora verrò da te, se tua moglie sarà buona. Ma vieni adesso da me, disse Levin. Ah, come staremmo bene. Ci verrei da te se sapessi che non ci trovo Sergei Ivanich. Ma non lo troverai, io vivo completamente separato da lui. Ah, sì, ma per quanto tu dica, devi scegliere fra me e lui, disse Nikolai guardando timidamente il fratello negli occhi. Quella timidità commosse Konstantin. Se vuoi che mi confessi con te a questo proposito, ti dirò che nella tua lite con Sergei Ivanich non prendo le parti né dell'uno né dell'altro. Avete torto entrambi. Tu hai torto più in modo esterno e lui più in modo interno. Oh, l'hai capito questo, questo l'hai capito, gridò con gioia Nikolai. Ma io personalmente, se vuoi saperlo, tengo più alla tua amicizia, perché? Konstantin non poteva dire che ci teneva perché Nikolai era infelice e aveva bisogno di amicizia, ma Nikolai capì che voleva dire proprio questo e aggrottandosi ritornò alla vodka. Basta, Nikolai Dmitrich, disse Maria Nikolaevna protendendo il braccio nudo e paffuto verso la brocca. Lascia, non seccare, ti ammazzo, gridò egli. Maria Nikolaevna sorrise d'un sorriso mite e buono che si trasmise anche a Nikolai e prese la vodka. Tu credi che lei non capisca nulla? Tutto questo lei lo capisce meglio di tutti noi. È vero che in lei c'è qualcosa di buono, di caro? Non eravate mai stata a Mosca prima? Le disse Konstantin, tanto per dire qualcosa. Ma non darle del voi, questo le fa paura. Nessuno mai le ha dato del voi, eccetto il giudice di pace quando la giudicavano perché voleva andarsene via dalla casa di corruzione. Dio mio, che assurdità ci sono al mondo, gridò a un tratto. Questi nuovi istituti, questi giudici di pace, lo Zemsvo, che mostruosità! E cominciò a raccontare i suoi urti con le nuove istituzioni. Konstantin Levin lo ascoltava, e quella negazione d'ogni significato alle istituzioni sociali che egli condivideva con lui e sovente esternava, ora tuttavia gli era sgradevole sulle labbra del fratello. «All'altro mondo capiremo tutto questo», disse scherzando. «All'altro mondo? Ah, non mi piace l'altro mondo, non mi piace!» disse Nikolai fermando gli occhi selvaggi e spaventati sulla faccia del fratello. Perché, anche se sembra che sarebbe bello andarsene da tutto questo abominio e questa confusione nostra e degli altri, io ho paura della morte. Ho una paura tremenda della morte. Egli rabbrividì. Ma bevi qualcosa? Vuoi dello champagne? Oppure andiamo in qualche posto? Andiamo dagli zingari. Sai, ho imparato ad amare molto gli zingari e le canzoni russe. Cominciava ad avere la lingua impastata e si mise a saltare da un argomento all'altro. Con l'aiuto di Masha, Konstantin lo persuase a non andare in nessun posto e lo mise a letto completamente ubriaco. Masha promise di scrivere a Konstantin in caso di necessità e di persuadere Nikolai Levin ad andare a vivere dal fratello. Ebbene, tutto è finito, e sia lodato Dio. Fu il primo pensiero che venne ad Anna Arcadievna quando ebbe salutato per l'ultima volta il fratello, che sino al terzo segnale le aveva sbarrato con la sua persona l'ingresso nella vettura. Si sedette sul divano accanto ad Agnoshka e si voltò a guardare nella penombra del vagone letto. Grazie a Dio domani vedrò Seriosa e Alexei Alexandrovich e ricomincerà la mia vecchia, buona e solita vita. Sempre in quello stato d'animo di tensione in cui si era trovata per tutto il giorno, Anna si sistemò con cura e piacere per il viaggio. Con le sue piccole mani destre aprì e richiuse il sacchetto rosso, tirò fuori un piccolo cuscino, se lo mise sulle ginocchia e, avvolte con cura le gambe, si accomodò tranquillamente. Dapprima la disturbarono l'andirivieni e il chiasso, poi, quando il treno si mosse, non si poteva non porgere orecchio ai rumori. Poi la neve che sbatteva contro il finestrino di sinistra e si appiccicava al vetro, e la vista del capotreno imbacuccato che passò accanto tutto coperto di neve da una parte, e i discorsi sulla terribile tormenta che infuriava fuori distrassero la sua attenzione. In seguito tutto fu sempre uguale, sempre lo stesso scuotimento con i colpi, la stessa neve al finestrino, gli stessi subitanei passaggi da un calore che faceva sudare al freddo e poi di nuovo al calore. Lo stesso balenare dei medesimi volti nella penombra e le stesse voci. E Anna prese a leggere e a capire quel che leggeva. Agnoshka sonnecchiava già, tenendo il sacchetto rosso sulle ginocchia con le sue larghe mani dentro i guanti, uno dei quali era strappato. Anna Arkadievna leggeva e capiva, ma le dispiaceva leggere, ossia seguire il riflesso della vita altrui. Aveva troppa voglia di vivere lei stessa. Se leggeva che l'eroina del romanzo accudiva un malato, le veniva voglia di camminare a passi silenziosi nella stanza del malato. Se leggeva che un membro del Parlamento teneva un discorso, aveva voglia di essere lei a pronunciare il discorso. Se leggeva che Lady Mary inseguiva un branco a cavallo e stuzzicava la cognata e stupiva tutti con il suo coraggio, aveva voglia di fare lo stesso. Ma non poteva fare nulla, e maneggiando il coltellino liscio con le sue piccole mani, si imponeva di leggere. L'eroe del romanzo aveva già cominciato a raggiungere la sua felicità inglese, il titolo di baronetto e un possedimento, e Anna desiderava andare con lui in quel possedimento, quando a un tratto sentì che lui avrebbe dovuto vergognarsi, e che lei si vergognava proprio di questo. Ma di che cosa lui doveva vergognarsi? Di che cosa mi vergogno io? Si domandò con offeso stupore. Lasciò il libro e si distese sullo schienale della poltrona, stringendo con forza, con entrambe le mani, il tagliacarte. Non c'era nulla di cui vergognarsi. Riandò a tutti i suoi ricordi di Mosca. Erano tutti belli, gradevoli. Ricordò il ballo, ricordò Vronsky e il suo viso innamorato e sottomesso. Ricordò tutti i propri rapporti con lui. Non c'era nulla di cui vergognarsi. E tuttavia, proprio a questo punto dei ricordi, la sensazione di vergogna si faceva più forte, come se una voce interna, proprio a questo punto, quando lei si ricordava di Vronsky, le dicesse «Caldo, caldissimo, bruciante». «E con questo», si disse risolutamente, cambiando posizione nella poltrona. «Che vuol dire questo? Perché io ho forse paura di guardare in faccia questo? E allora...» Possibile che fra me e questo ufficiale ancora ragazzo esistano e possano esistere altri rapporti che non quelli che si hanno con qualsiasi conoscente? Sorrise con disprezzo e riprese nuovamente il libro, ma ormai non riusciva più veramente a capire quel che leggeva. La voce di un uomo imbacuccato e coperto di neve le gridò qualcosa sopra l'orecchio. Essa si alzò e ritornò in sé. Capì che erano arrivati a una stazione e che quello era il capotreno. Chiese ad Agnoshka di darle la pellegrina che si era tolta e il fazzoletto, se li mise, e si diresse verso la porta. «Volete uscire?» domandò Agnoshka. «Sì, voglio prendere una boccata d'aria, qui fa molto caldo». E aprì la porta. La tormenta e il vento le si scagliarono contro e si misero a litigare con lei per lo sportello, e questo le parve allegro. Aprì la porta e uscì. E il vento pareva aspettare solo lei. Fischiò di gioia e avrebbe voluto afferrarla e portarla via, ma lei si aggrappò con una mano a una colonnina fredda e, trattenendo l'abito, discese sulla banchina e passò dietro il vagone. Il vento era forte sulla scaletta, ma sulla banchina dietro i vagoni c'era bonaccia. Con piacere, a pieni polmoni, aspirò l'aria nevosa, gelata e, stando in piedi accanto al vagone, osservava la banchina e la stazione illuminata. le passarono vicino due signori con il focherello delle sigarette in bocca. Essa respirò ancora una volta per riempirsi d'aria a sazietà e aveva già tolto una mano dal manicotto per aggrapparsi alla colonnina ed entrare nel vagone quando un uomo in paltò militare, proprio accanto a lei, le nascose la luce vacillante della lanterna. Lei si volse a guardare e nel medesimo istante riconobbe la faccia di Vronsky. Elsa Galvato ha letto Anna Karenina di Lev Tolstoj. Riduzione del testo di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.